Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La prima volta che ci siamo visti è venuta a trovarmi nel luogo di villeggiatura in cui mi trovavo con i miei. Ero ovviamente emozionata, ma non quanto lui. Quasi non riusciva a parlare. Non vedevo l'ora, finalmente, di avere un dialogo verbale con lui. E lui rimase praticamente muto. Mi fissava, mi scrutava, ma con uno sguardo disarmante. A un certo punto poi mi diede una lettera, che però mi chiese di leggere dopo il nostro saluto. Sono Chiara Tixi, ho appena compiuto 35 anni, sono, come si sente dall'accento, emiliana, ma vivo a Londra da parecchi anni e sono appassionatissima di tennis, direi quasi ossessionata. E doveva arrivare prima o poi un racconto come quello di Chiara, forse ne avevamo già fatto uno, però era diverso, in cui si parla di quella cosa che ha un'accezione stupidamente negativa quando se ne parla, che sono le chat, che sono i rapporti via chat, l'amicizia via chat. Dico stupidamente negativa per il semplice fatto che quando nomini una chat la gente la guarda... Allora, fino a qualche anno fa per lo più non si sapeva esattamente cosa fosse, adesso lo si sa, ma è semplicemente uno sviluppo veloce delle mail o dei messaggi su Facebook. Però c'è sempre la sensazione che quei rapporti lì non siano rapporti, è un po' è vero e un po' no, e quindi c'è una forma di snobismo, no? E di distacco nei confronti delle chat. È una cosa secondo me un po' italiana. Ne parlavamo prima con Tiziano, io ho conosciuto diverse persone che vivono fuori da questo paese, che vivono magari in città più caotiche dove si va per lavorare, dove quindi si è soli, non si ha una famiglia, non si hanno particolarmente amici, e moltissime coppie si sono conosciute attraverso internet, forse perché si ha più bisogno di una famiglia e lì si cerca veramente quella roba, cioè avere una persona vicina, mentre nel retaggio comune uno che va in chat cerca altro. C'era stato, vi ricordate, un ascoltatore che ci aveva dato un racconto, o forse no, una telefonata, un ascoltatore di Bari, giusto, che diceva che aveva incontrato 100 donne, una roba del genere, e aveva una compagna. Ma tant'è, oggi non si parla in realtà di quello, si parla attraverso quello, attraverso il racconto di Chiara, si parla dei rapporti epistolari, che è un termine vetusto quasi, perché appunto uno manda una mail e non è considerata come una lettera, infatti la chiamiamo mail. Se uno dice ti ho mandato una lettera elettronica, un altro gli sputa in faccia, no? E invece no, i rapporti epistolari sono cose che sembrano legate al passato, e vi faccio un esempio dei racconti, dei messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook. Paola dice: io ho avuto rapporti epistolari agli inizi degli anni 80, misi un annuncio su Ragazza In, che non so cosa sia Ragazza In, immagino sia una roba tipo Cioè, probabilmente, su Ragazza In per trovare un pen friend, cioè un amico di penna. Ricevetti centinaia di lettere, credo di aver risposto a tutti almeno una volta. Poi sono rimasto in contatto con Laura, Cucciolo era il suo soprannome. Ci siamo scritte per alcuni anni durante l'adolescenza. Di lei oggi mi rimane il ricordo della sua essenza, delle cose importanti per cui valeva la pena parlare una lettera scritta a penna, magari da scuola e di nascosto. Mi sembra di averla conosciuta come una sorella e pensare che non ci siamo mai incontrate. E le distanze sembravano enormi. Lei a Milano e io a Modena. 349-238-6666 oppure Matteo Caccia, io sono qui, al profilo Facebook. Se avete avuto dei rapporti epistolari, valgono anche via me, che sono rimasti prettamente epistolari, o anche tramite SMS. Dov'è il racconto di... Eccolo qua, Eleonora. Io nel 2003 ricevetti un SMS per errore da un ragazzo della Calabria. Da allora ci sentiamo e ci scriviamo, ma non ci siamo mai visti. Ma il migliore di tutti al momento è questo qua, Francesca. Posso dirti di più. Il bambino con cui scambiavo letterine a 13 anni, dopo un suo annuncio per Pen Friend pubblicato sul giornalino di fumetti Lupo Alberto, ebbene, quel bambino diventerà mio marito il prossimo anno. Francesca, se sei in ascolto, hai voglia di raccontarmi di più, mandami un messaggio o un SMS o una letterina su Facebook o via mail. Voi siete qui, @radio24.it, perché... perché non è poca roba questa, no? Cioè, parli con un ragazzino e poi diventa tuo marito. 349-238-6666. Più tardi, oggi tanto io vi immagino sarete in macchina, no? Oggi è venerdì santo, no? giusto? Oggi è venerdì santo, ok. Quindi molti di voi, Milano è già quasi deserta. Scusatemi, la Pasqua lo dicono sempre, mi piace sempre quando ascolto la notizia sul meteo. L'han detto oggi, Pietro, che è un po' le prove generali del grande esodo. La Pasqua sono già le prove generali del grande esodo. Insomma, per cui la città è effettivamente mezza vuota, ma per il semplice fatto che le scuole sono chiuse. Quindi vi immagino a quest'ora in macchina verso la montagna o verso il mare o verso dove volete. Per cui rimanete lì, ascoltatevi il racconto di Chiara, ma più tardi, dopo la borsa, c'è la borsa anche al Venerdì Santo? Non c'è la borsa al Venerdì Santo, davvero? Abbiamo trovato un giorno in cui la borsa è chiusa. Venerdì Santo e Natale. Quando? E Santo Stefano. Vabbè, più o meno. Comunque, alle 16.30 c'è veramente una chicca che la redazione di Voi Siete Qui è andata a scovare. Manco mi ricordo bene come e dove. So che durante la riunione è venuta fuori e dobbiamo ringraziare la professoressa Aina, zia di Margherita Aina, anche lei parte della grande famiglia comunista romentinese, che è andata alla Biblioteca Comunale di Novara e ha recuperato questo libro che si chiama Lettere di una monaca portoghese. Se avete voglia di portare la vostra mente, il vostro corpo, il vostro cuore alla fine del 1600, rimanete lì e sarete nei panni di una monaca che scrive al suo amato che non rivedrà mai più. 349 238 6666. Si parla di rapporti epistolari, si parla della storia di Chiara. Luca era quello che tecnicamente si può definire un cascamorto, glielo dicevo sempre, soprattutto negli ultimi anni. Lui ovviamente se la prendeva, ma neanche troppo, anche perché in fondo sapeva di esserlo. C'erano sempre una marea di ragazze che gli ronzavano intorno o a cui lui faceva la corte, e io ero una delle tante, o forse quello che racconta a me stessa per non soffrire troppo. Perché Luca non c'è più, se l'è portato via l'asfalto e il ghiaino di una strada di montagna, la sua montagna, un pomeriggio d'estate. Luca aveva solo 30 anni. Poco dopo la sua morte, Rafael Nadal riuscì a battere Roger Federer e diventò il numero uno al mondo. E la prima cosa che pensai fu una e una sola: Luca non ha nemmeno visto il suo idolo arrivare al numero uno. Luca era, penso che fosse una persona che mi voleva molto bene, anche se magari non me lo diceva, diciamo, esplicitamente. E, era una persona molto intelligente a cui piacevano molto le ragazze. E quindi, diciamo, aveva anche un certo successo e non so, era una persona, è stata una persona importante per me, ecco, anche se paradossalmente l'ho visto veramente pochissimo nella mia vita. Luca l'ho visto 3 volte in vita mia, ma è stata una delle persone a me più vicine per 10 anni. Lo sentivo praticamente tutti i giorni su Messenger attraverso un computer. Con lui e con altri studenti universitari avevo scoperto le chat, era il 1997. Poi col tempo alcuni sono scomparsi e alcuni li sento ancora. Lui c'è sempre stato e non abbiamo mai smesso di parlare attraverso quella chat. La prima volta che ci siamo visti è venuto a trovarmi nel luogo di villeggiatura in cui mi trovavo con i miei. Ero ovviamente emozionata, ma non quanto lui. Quasi non riuscivo a parlare. Non vedevo l'ora finalmente di avere un dialogo verbale con lui, ma lui rimase praticamente muto. Mi fissava, mi scrutava, ma con uno sguardo disarmante. A un certo punto mi diede una lettera, che però mi chiese di leggere dopo il nostro saluto. Di ritorno all'hotel in macchina ci fu un momento breve che sembrò durare un'eternità. Fu il momento in cui lui voleva baciarmi, ma non ebbe il coraggio di farlo. In realtà fu anche quello in cui io non volevo baciarlo, ma mi chiedevo se lui l'avrebbe fatto. E invece niente. Un ciao, un ci vediamo prima che tu parta, e nient'altro. Lo rividi ancora un'oretta, qualche giorno dopo, e poi partì. Io poi l'ho rivisto tanti anni dopo, è venuto a trovarmi a Londra, ne abbiamo un po' parlato e lui alla fine diceva sempre che era colpa mia, che ero io che avrei dovuto baciarlo, e insomma non ci siamo mai accordati su come sarebbe dovuto andare in macchina, appunto, in quel momento che ci siamo salutati, non ci siamo mai messi d'accordo. E poi il Belgio, l'Erasmus, l'incontro con quello che sarebbe stato il mio compagno per 8 lunghi anni, che Luca non incontrò mai, ma che istintivamente detestava e di cui da lontano coglieva tutte le cose sbagliate, che invece non vedevo o non volevo vedere, fino a quando le dovetti affrontare per forza. Una marea di litigate in chat, a migliaia di chilometri di distanza, perché lui capiva che le cose non andavano bene nella mia vita sentimentale, mentre io no, mi ostinavo a non vedere niente. Un sacco di conversazioni chiuse in faccia, però alla fine facevamo sempre la pace. Tutto quello che mi rimane oggi è quel suo rimpianto di non avermi baciata quel pomeriggio d'estate, sulla sua panda. Un rimpianto che per orgoglio o chissà cosa lui trasformava sempre in un'accusa verso di me. Non hai neanche provato a darmi un bacio. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Io mi ricordo una delle più belle figure di merda che ho fatto nella mia vita. Ce ne sono tantissime, poi magari un giorno ve la racconto, ma magari anche no, me le tengo un po' per me. Questa però è straordinaria, ve la devo raccontare anche perché c'entra con il racconto di Chiara e con la sua storia. Avrò avuto 20 anni più o meno e avevo un amico, Bruno, che era stato lasciato da un anno dalla sua ragazza. E dopo, massimo un mese di disperazione, si era ampiamente ripreso. Anzi, da un certo punto in avanti era pieno di ragazze, una roba che noi della compagnia non saremmo mai stati capaci di averne così tante. E la roba era semplice: Bruno aveva cominciato a chattare, si era iscritto a quei siti dove conosci delle ragazze, ci parli un po' e poi ti ci incontri nella vita reale. Bruno era ed è tuttora uno molto bravo a scrivere e uno bravo anche a chiacchierare, per cui nel giro di un anno era uscito con un numero impressionante di ragazze. Un giorno io e Bruno andiamo insieme a Roma e andiamo a trovare suo cugino, che è più grande. Una volta arrivati usciamo a cena con lui e con la moglie. Praticamente io, che sono astemio, dopo mezzo bicchiere di vino, tutto bello rosso in faccia e felice come un bambino il giorno di Natale, comincio a prendere in giro Bruno davanti al cugino, così, per fare il simpaticone, no? Una roba che mi riesce sempre molto bene. E lo prendo in giro per quel motivo lì, perché Bruno chatta e comincia a dire robe tipo: oh, figurati, conosci le ragazze sul computer, mica nella vita reale come faccio io. Che poi in realtà era come non facevo io, visto che praticamente uscivo solo con Bruno. Insomma, lo prendo in giro come uno scemo, perché ero un moralista all'epoca che vedeva nelle chat una roba da sfigati, no? Mentre finisco il mio discorso con Bruno, che tra l'altro mi tirava delle botte sotto il tavolo, vedevo il suo cugino che mi guardava fisso e mi spiega che la sua compagna, in quel momento al tavolo con noi, l'ha conosciuta in chat qualche anno prima. Ma dai, davvero? Strano, no? E lui mi dice: sì, giuro. Mi racconta che si sono trovati subito, che si sono visti, si sono piaciuti, si sono innamorati e adesso sono pure sposati e vivono felici e contenti. Quindi, dopo quella sera lì, io ho deciso che mi sarei emancipato un po' e avrei provato queste chat, mi ci sarei iscritto, no? Insomma, che era anche ora di finirla con quell'atteggiamento così moralista, così da vecchio. Bisognava sfruttare le nuove tecnologie, pensai, avevo 20 anni, e non avere lo stesso atteggiamento che avevano i nostri avi nei confronti di internet o del computer. In tutto sono durato 2 settimane e vi giuro, non per colpa mia, io ci ho provato, mi sono pure impegnato, è solo che proprio non ce l'ho fatta. Il problema è che nelle chat si passa la maggior parte del tempo a fare delle proiezioni di se stessi. Tutti noi della compagnia prendevamo in giro Bruno perché lui era un campione mondiale di capriole all'indietro, dicevamo, nel senso che Bruno non aveva alcun problema a parlare bene di se stesso. A lui piaceva e credo piaccia ancora molto questa pratica. Invece io non ero bravissimo a fare quella roba lì, a fare il campionato mondiale di capriole all'indietro, e mi annoiavo da morire, anche vedere gli altri che parlavano solo ed unicamente di se stessi. Quindi alla quarta ragazza che incontravo in chat, che mi parlava solo ed esclusivamente di lei, raccontandomi di quanto fosse sensibile, di quanto lei si sentisse una persona differente rispetto a tutti quelli che la circondavano e di come fossero belle le sue poesie, mi sono profondamente rotto le palle. Per cui, dopo una 15 di giorni, ho deciso che non avrei mai più aperto il mio account su quel sito. In parallelo, intanto per non sbagliare, non è che ho cominciato a tentare di incontrare ragazze dal vivo, perché non ero capace. Ho semplicemente continuato a fare esattamente come prima. L'unica differenza è che ho smesso di prendere in giro Bruno. E un po' mi dispiace. Un po' mi dispiace, perché Bruno è una delle persone più permalose del mondo, ma non posso più rischiare la figura del vecchio tecnologico. Vabbè, è andata così. What a drag not to know how you are. Which of us got the raw deal? I was a Susanna, 48 anni. Io ho avuto un amico di penna del Bhutan negli anni 70, conosciuto negli anni 90, con il quale non ho più contatti a causa del regime del suo paese. Poi ancora, ciao, alle superiori presi l'unico 4 in tecnologia, media del 9, per aver letto di nascosto una lettera di un'amica di penna, Steo di Biella. E poi devo rispondere a Giampaolo. Giampaolo, ascoltami un secondo, abbiamo capito che ci ha invitato a Zocca per il tour, te ne siamo profondamente grati, non dipenderà solo da noi dove andremo a fare questo benedetto tour, però ti prego non mandarmi 5 sms durante la diretta, abbiamo capito, grazie per l'invito a Zocca, so tutto di Zocca, so che Vasco Rossi va a trovare la madre a Zocca, so che l'impiegata del comune si chiama Stefania perché me l'hai scritto, ma basta, buona Pasqua anche a te. Chiara, pronto Chiara? Pronto? Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie mille. Senti, sei a Londra tu in questo momento? Ti chiamiamo Sono a Londra. Ma, sì. Ma paghiamo noi? Paga Radio 24? Ah. E allora facciamo in fretta, Chiara. No, senti, senti, so che tu, oltre ad aver usato le chat e aver conosciuto Luca attraverso le chat, di fatto di mestiere scrivi. Sì, diciamo che riscrivo quello che hanno scritto gli altri. Vabbè, fai la traduttrice. E io so anche che tu hai tradotto, tornando in parte alla storia e in parte a uno degli idoli di Luca, hai tradotto l'autobiografia di Nadal. Sì, come fai a saperlo? Lo so, perché una volta ho letto una cosa che hai scritto su Facebook, stavo guardando la stessa partita di tennis che stavi guardando tu e ho notato che eri felice di sentire delle tue frasi tradotte in bocca al commentatore di Sky. Vabbè, ho buona memoria, semplicemente tutto qua. Che cosa stai traducendo adesso, Chiara? No, guarda, adesso niente di interessante, nel senso che i libri mi capita praticamente mai di tradurli, faccio un sacco di finanza, per questo ascolto anche volentieri Radio 24. Cioè traduci traduci cosa, articoli o libri? Rendiconti finanziari. Wow, ma che eccitante! Cioè tipo, rendiconti finanziari di chi? Di che cosa? Delle aziende, di come è andata l'azione o come è andato, insomma, più che altro di gestori in generale, insomma, vanno i loro portafogli. E come va? C'è lavoro? Sì, si campa bene, sì, si campa così, sì, così? Sì, sì, sì, ce n'è di lavoro. Faccio anche l'interprete, tra parentesi, non solo la traduttrice. Che è una roba diversa perché l'interprete è orale, giusto? Devi, esatto. In tempo... Che una volta avevo parlato con un interprete, è veramente un casino perché tu devi, mentre parli, continuare ad ascoltare quello che viene detto, giusto? Quello che dici anche tu, per non dire scemenze, ovviamente. Cioè, quindi tu traduci, e tra l'altro in altra lingua, no? Cioè, tu traduci quello che viene detto, lo stai dicendo, e intanto stai ascoltando quello che viene detto per tradurlo immediatamente dopo. Esatto. Sì, mi sono perso in quella stessa roba che ho detto, però credo che più o meno il senso si sia capito. Sì. Senti, perché sei andata a vivere a Londra? La storia è un po' lunga, fondamentalmente per l'inglese, perché avevo fatto studi di, appunto, di interpretazione e traduzione, francese e inglese, e francese ce l'avevo già abbastanza buono e ho detto andiamo a migliorare l'inglese, e poi sono rimasta qua. Ma passa attraverso la storia di cui ci racconti, per cui sei nata in Belgio, hai avuto una relazione di 8 anni, quella con cui Luca non era particolarmente d'accordo, e poi sei approdata a Londra, più o meno la strada è quella? Fondamentalmente in Belgio poi il ragazzo che avevo conosciuto siamo venuti insieme a Londra, tutti e due volevamo venire a fare un'esperienza qua a Londra e quindi siamo venuti insieme. Ok, e quindi sei rimasta lì. Senti, mi dici invece cosa ti ricordi di Luca, che di fatto è mancato quanto più o meno, quanto tempo fa? È mancato, se non mi ricordo male, ad agosto del 2008, quindi, ah beh, sono quindi quasi 4 anni. È abbastanza, però abbastanza recente, insomma. Che cosa ti ricordi di lui? Voglio dire, cioè, la prima cosa che ti viene in mente è una cosa che vi scrivevate o una cosa che è accaduta quando vi siete, quelle 3 volte che vi siete visti? Cioè, è più forte l'immagine che hai di lui o l'immagine che lui aveva e che ti è arrivata incontrandolo, questo intendo dire? Guarda, la cosa che più mi ricordo di lui era appunto questo affetto che aveva nei miei confronti, che però traspariva solo nel... cioè, di cui mi sono magari resa conto di più quando poi la mia storia appunto è finita con l'altro ragazzo, perché a poco mi sono resa conto che tante cose che Luca vedeva a distanza e senza vederci di persona le vedeva meglio di me, insomma. Quindi questo me lo ricordo sempre, insomma. Senti, invece, Chiara, un'ultima cosa. Federer o Nadal? Federer, tutta la vita, benissimo. Chiara, senti, ti ringrazio molto, ti auguro una buona Pasqua e buona fortuna per tutto. Grazie. grazie, buona Pasqua a voi, tutti della redazione e anche a te. Ciao, grazie Chiara, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Mattia, ho 37 anni, da Treviso, io non ho mai scritto una lettera in vita mia, ma ho sempre voluto farlo. Mattia, adesso tu ti metti lì, prendi una maledetta penna e un foglio di carta e scrivi una lettera a chiunque tu voglia, a chiunque tu voglia, ma scrivi una lettera. Adesso niente borsa, Mattia scrive sta lettera e poi tra 10 minuti mi scrivi al 349-238-6666 cosa hai scritto e a chi l'hai scritta. Ci sentiamo dopo. Voi siete qui. Non è finalmente un autoscatto la foto di oggi che ci manda Chiara. È una foto fatta ad una cena ed è chiaramente una di quelle cene in cui si è in tanti, tra amici o amiche, perché se si è in due non si passa il tempo a scattarsi foto, o quantomeno non le si manda a un programma radiofonico. Ha su un bel maglione elegante rosso e ha una specie di caschetto. Sta sorridendo guardando altrove. Alle spalle ha una specie di murales di quelle robe peruviane di tutti i colori, quindi temo per lei che sia in uno di quei ristoranti improvvisati, tipo facciamo cucina africana e poi il cuoco è probabilmente di Cinisello Balsamo. Con tutto il rispetto per i cuochi di Cinisello Balsamo, che però magari non sono propriamente ferrati nella cucina africana o peruviana, dovunque sia. 349-238-6666. Luisa, si chiama Manuji Gurie. Ci siamo conosciuti epistolarmente a 12 anni, si parla di rapporti epistolari. Lui dell'isola di Mauritius, io alle porte di Roma. Nei primi anni scambio molto fitto, poi lettere sempre più diradate. Eppure ancora oggi a Natale ci mandiamo la lettera di auguri con la foto. Si è sposato, ha avuto 2 figli, 5 anni fa la moglie è morta e lui è andato a vivere a Durban con i suoi 2 ormai ragazzi. Sono passati 30 anni e vorrei tanto andare in Sudafrica a conoscerlo, magari con marito e figlio a seguito. Prima o poi succederà, fa parte della lista dei desideri. Si parlava proprio grazie al racconto di Chiara di questi rapporti nati attraverso una lettera oppure tornati alla lettera. Era arrivato un messaggio, non mi ricordo più di chi, che diceva il mio più caro amico è una delle 5 persone a cui tengo di più al mondo, con cui mi scrivo quotidianamente tutti i giorni. Ci siamo, in verità abbiamo fatto in modo che diventasse un'amicizia normale, ma ci si conosce dal vivo, ma poi abbiamo stabilito di comune accordo che era meglio continuare la nostra amicizia via penna. È un grosso regalo che ci facciamo tutti i giorni. Vi dicevo prima che cercando in qualche modo nella memoria, non so come ci siamo arrivati a trovare questo libro che è veramente una chicca, e se lo trovate è un libro della Marsiglio, e se lo trovate compratevelo. Si chiama Lettere di una monaca portoghese. Sono 5 lettere scritte da un'ipotetica suora di clausura, totalmente persa per un ufficiale francese. Tra l'altro lei racconta di essersi innamorata di lui perché l'ha visto fare delle evoluzioni equestri dalla finestra della sua cella. Si sono incontrati, hanno fatto quello che dovevano fare, dopodiché lui è sparito perché è tornato in Francia. La storia è molto semplice. La cosa però è che questo libro arriva dal 1669, quando ancora non si usava entrare nello specifico di storie carnali e sessuali, e divenne un bestseller, divenne una roba che fu pubblicata, ripubblicata, ripubblicata, e uomini e donne impazzivano, e di fatto nacque un genere letterario, che era quello non solo del romanzo epistolare, ma del romanzo o del libro appassionato e passionale, una sorta di Harmony ante litteram, no? Creò veramente un genere, solo che è chiaramente di una qualità altissima. Tra l'altro la cosa ancora più interessante è che probabilmente è tutto un fake, cioè è tutto inventato. È tutto inventato perché la prima pagina del romanzo è la lettera di un editore, cioè dell'editore, che dice così: sono riuscito con molta cura e molti affanni a recuperare una copia corretta della traduzione delle 5 lettere portoghesi scritte a un nobile gentiluomo di stanza in Portogallo. Ho sentito tutti quelli che si intendono di sentimenti lodarle o ricercarle con tanta sollecitudine che ho creduto, dandole alle stampe, di far loro gran piacere. Non conosco il nome di colui al quale sono state scritte né di colui che ne ha fatto la traduzione, ma mi è parso che rendendo le note non avrei recato loro un dispiacere. Difficilmente sarebbero state pubblicate senza errori di stampa che le avrebbero sfigurate. Ripeto, sono solo 5 lettere, ma sono meravigliose. Questa donna è chiusa in un convento e parla all'uomo che ha amato e che ama disperatamente. Come potevo sperare che sareste rimasto tutta la vita in Portogallo, rinunciando al vostro avvenire e al vostro paese, per pensare a me soltanto. I miei dolori non possono ricevere sollievo, e il ricordo dei miei piaceri mi colma di disperazione. Tutti i miei desideri saranno dunque inutili, e non vi vedrò mai più nella mia camera, impetuoso e ardente come un tempo. Ma io mi illudo, ora capisco che tutte le emozioni che possedevano la mia mente e il mio cuore erano per voi risvegliati solo da qualche piacere, e con il piacere si esaurivano. Avrei dovuto in quei momenti così felici far appello alla ragione, perché mi soccorresse e moderasse l'eccesso funesto del mio diletto, annunciandomi il dolore di adesso. Eppure io mi davo tutta a voi, e non ero in condizione di pensare a ciò che poteva avvelenare la mia gioia e impedirmi di godere appieno le prove ardenti della vostra passione. Troppo mi compiacevo di stare con voi per pensare al giorno in cui voi vi sareste staccato da me. Eppure ricordo di avervi talvolta detto che mi avreste resa infelice, ma simili timori presto si dileguavano e io mi compiacevo di sacrificarveli, abbandonandomi all'incanto e alla malafede delle vostre dichiarazioni. So benissimo quale sarebbe il rimedio a tutti i miei tormenti. Ne sarei presto liberata se smettessi di amarvi. Ma che odioso rimedio. No, preferisco soffrire di più, piuttosto che dimenticarvi. He came riding fast like a phoenix out of fire flames. He came dressed in black with a cross bearing my name. He came bathed in light and splendor and glory. Can't believe what the Lord has finally sent me. Divenne un tale bestseller questo libro, ripeto, Lettere di una monaca portoghese, che alla fine del 1600 un editore pubblicò il sequel. Si chiamava Lettere portoghesi seconda parte, solo che a differenza di quanto il titolo lascia supporre, no? Che sia una sorta di tentativo di imitazione, non è quella roba lì, e non erano nemmeno il seguito della storia, perché Marianna, che è la suora, lasciava il posto, lasciava il convento e diventava una donna del bel mondo. Quindi non so se abbia avuto successo questa seconda parte, questo sequel, però sta di fatto che le lettere portoghesi, ripeto, pubblicate il 4 gennaio del 1669, creò un genere che non esisteva. E c'è un altro passaggio straordinario in cui questa donna è talmente innamorata che cerca di convincere il suo amante che le migliori amanti tra le donne sono le monache, perché hanno tanto tempo a disposizione, ma sono libere dagli impegni delle donne normali che escono e si lasciano andare in frivolezze, e per cui dice: eppure credo che se gli uomini potessero, nelle scelte che fanno, usare la ragione, le dovrebbero preferire le monache a tutte le altre donne. Nulla impedisce loro di pensare ininterrottamente alla loro passione, né sono distratte da mille cose del mondo che dissipano e impegnano. Credo che non sia piacevole vedere la donna amata continuamente distratta da mille frivolezze, e bisogna mancare di delicatezza per sopportare, senza disperarsi, quei continui discorsi sui ricevimenti, vestiti e passeggiate. Con loro si è perennemente esposti a nuove gelosie, ma non pretendo di provarvi con efficaci argomenti che dovreste amarmi. Sono pessimi mezzi e io ne ho impiegati di molto migliori, senza alcun risultato. Si chiama Lettere di una monaca portoghese. Se state andando via per Pasqua, ormai è troppo tardi per trovare una libreria, ma segnatevelo da qualche parte e leggetevelo. Grazie anche a quelli che hanno reso possibile questa puntata, questa del Venerdì Santo, che sono Margherita Ina, Tiziano Bonini, la zia di Margherita Ina che ci ha trovato questo libro, Tiziano Bonini, Federico Bernocchi e Pietro La Corte. La storia di oggi era la storia di Chiara e parlava di amori epistolari. La storia di lunedì è la storia di Filippo e parla di grandi scoperte. Questa è una storia di morti e di vivi. Una storia strana, per certi versi incredibile. Fatemi credito di un po' del vostro tempo e mi darete ragione. Sappiate però fin d'ora che sono disposto a giurare sulla luce degli occhi miei che ogni singola parola che sentirete qui appresso corrisponde a verità.